Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buonasera cari amiche e cari amici, parliamo oggi di un tema che certamente ci interessa direttamente tutti, e cioè il tema della scuola. Sulla scuola in questi ultimi anni è invalsa una certa moda, una certa attrazione verso le nuove tecnologie, quasi che le nuove tecnologie possano avere una funzione salvifica nei confronti della situazione scolastica che spesso dipingiamo come fortemente in crisi. Ci vogliono più tablet e meno lavagne, e soprattutto più tablet e meno libri nelle scuole. E che tipo di istruzione possiamo offrire agli studenti attraverso le nuove tecnologie? Una visione realista sull'impatto delle tecnologie nella scuola e sull'insegnamento è il libro di un noto esperto di questioni educative e didattiche, che è Adolfo Scotto Di Luzio, docente all'Università di Bergamo proprio di storia della pedagogia. Ha scritto il libro Senza educazione, i rischi della scuola 2.0, pubblicato dal Mulino, 136 pagine, 12 euro. La tesi del libro è chiara e netta. La buona scuola, scrive l'autore, si fa con bravi docenti e presidi e non con più tecnologia, che anzi rischia di aggravare le differenze sociali. E il libro parte da un'esperienza italiana, un progetto avviato nel 2009, Classi 2.0, che ha diffuso le lavagne interattive multimediali in 30.000 classi, dalle scuole elementari ai licei, al costo non irrilevante di 5 milioni di euro, i cui risultati si sono rivelati molto relativi, anzi difficili da quantificare e da valutare. Poi il libro parla di molte altre cose, per esempio parla dell'esperienza americana in Inghilterra, per concludere che questa diffusione del tablet è dovuta soprattutto all'obiettivo non dichiarato di creare cittadini neoconformisti, potremmo dire noi, cioè adeguati alle esigenze del mercato del lavoro, tradendo quindi quello che è il ruolo fondamentale della scuola e dell'istruzione. Allora sentiamo l'autore. Buonasera ad Adolfo Scotto Di Luzio. Buonasera. Adolfo Scotto Di Luzio, allora, il suo libro sembra poco convinto della diffusione dei tablet nella scuola italiana. Sì, è poco convinto perché tiene conto innanzitutto dei risultati di alcuni studi internazionali che in questi anni hanno messo in dubbio la bontà e l'efficacia delle tecnologie informatiche nella scuola, e poi per motivi culturali di carattere più generale, perché io non credo che la scuola sia il luogo di un apprendistato, della preparazione alle professioni, ma sia invece lo spazio che gli adolescenti hanno per crescere a contatto con un nutrimento culturale qualificato. Ma secondo lei questa diffusione del tablet nasce proprio perché si vuole diffondere appunto una professionalità, oppure perché il mondo moderno, come dicono alcuni, non può fare a meno di questi mezzi e quindi occorre anche fin dalla giovane età abituare all'utilizzo del tablet e dell'informatica? Il tema è molto delicato. Innanzitutto c'è sicuramente l'omaggio ad un mito moderno, una certa subalternità culturale nei confronti di ciò che si considera egemonico nella società. La società moderna ha conosciuto altre grandi rotture tecnologiche: l'immagine, il movimento, il cinema, la televisione, il motore a scoppio, ma non per questo la scuola è diventata il luogo dove si insegnava cinema, si concedeva la patente di guida. Il rapporto tra scuola e vita è sempre un rapporto dialettico e complesso. Il compito della scuola è dare agli studenti degli strumenti intellettuali e delle chiavi interpretative per utilizzare anche fuori dalla scuola, in maniera consapevole e critica, gli strumenti che l'evoluzione tecnologica mette loro a disposizione. Ma secondo lei come nasce questa illusione del tablet? Certamente ci sarà stata anche la pressione di chi produce tablet, lei su questo devo dire non insiste neanche troppo nel suo libro, ma soprattutto mi sembra che, come scrive lei stesso, ci sia stata una visione ideologica, cioè anzi lei la chiama una pretesa ideologica. Lei scrive: l'introduzione del computer intende risolvere niente meno che il problema dell'educazione all'altezza dei presunti nuovi bisogni educativi del XXI secolo, favorendo l'emergere di un nuovo ambiente per insegnanti e allievi. Ecco, è stato questo il prevalente motivo? Sì, questo è il modo con il quale i cosiddetti esperti dell'educazione hanno giustificato l'ingresso delle tecnologie a scuola. Naturalmente c'è anche tutto quello che lei ha detto prima, ci sono forti interessi di natura speculativa che fanno della scuola e premono perché la scuola diventi un mercato, ma naturalmente ragionando in termini diciamo sì, di teorie dell'educazione, il tentativo di giustificare l'ingresso delle tecnologie è stato fatto sulla base della considerazione che gli studenti sarebbero poco motivati e che l'intervento delle tecnologie servirebbe a riaccendere l'entusiasmo degli studenti per la scuola. Ma in realtà questo è ciò che è stato messo in discussione in questi anni, si è capito, si è visto, si è potuto misurare che le tecnologie sono degli elementi distraenti e l'effetto di motivazione cala ben presto. Ecco, riprendendo la sua motivazione, la sua diffidenza sul tablet, sul fatto appunto che più che insegnare, aiutare a imparare, aiuta a professionalizzarsi. Non è un paradosso il fatto che ci sia una pedissequa adesione da parte degli insegnanti, che normalmente sono considerati anche abbastanza di sinistra, a questa visione? Forse non se ne sono accorti, non l'hanno capito? Ma sugli insegnanti in questi anni si è scaricata, diciamo così, una pressione dai tratti punitivi molto forti. Agli insegnanti è stato detto che non erano aggiornati, che quello che sapevano non interessava più a nessuno, e quindi credo che sia scattato anche un meccanismo psicologico, tentativo di mettersi, diciamo così, al corrente delle tendenze dominanti nella società. Poi certo, naturalmente la scuola è anche culturalmente sprovveduta, non ci sono associazioni professionali, non ci sono riviste culturali, gli insegnanti hanno pochi strumenti a disposizione per potersi difendere dalla pressione ideologica che ha investito la scuola in questi ultimi tempi. Ma lei non crede che con questa diffusione del tablet c'entri molto anche la polemica, a mio parere, in molte occasioni dissennata che c'è stata negli scorsi anni sui libri e sul peso dei libri? Sì, c'è il paradosso di questa nuova scuola è che disprezza gli strumenti su cui si fonda. Fondamentalmente la scuola è costruita sulla base di un linguaggio articolato e complesso e i libri sono il veicolo di questo linguaggio articolato e complesso. La cosa pericolosa è che in questi anni c'è stata una svalutazione, spesso anche volgare, nei confronti del libro. Fra l'altro, come dire, non distinguendo nemmeno tra libro di testo e libro di lettura, saggio, trattato filosofico, per cui tutta la parola stampata è stata considerata un ferro vecchio di cui la scuola doveva sbarazzarsi. E infatti lei conclude il suo libro con un riconoscimento dell'importanza del libro e della parola, senza i quali non ci può essere apprendimento. Lei sta parlando a un pubblico che i libri li ama, quindi che cosa può dire loro per rafforzarli nella loro fiducia nel libro? E che leggere è un'operazione complessa e per mezzo della quale noi ci mettiamo in contatto con noi stessi e con il mondo, e leggere serve ad interpretarlo il mondo, tanto il mondo interiore quanto il mondo che sta fuori di noi. La differenza, che è anche una differenza politica, sta tra chi possiede molte parole e chi ne possiede poche. Chi possiede poche parole si condanna ad una immagine, come scrivo, opaca del mondo, e chi ha un'immagine opaca del mondo lo capisce poco. E a questo proposito, tornando ai tablet, lei dice che i tablet sono uno strumento per aumentare o comunque mantenere le diseguaglianze anche sociali. In che senso? Eh sì, questo, anche questo ormai è abbastanza chiaro in letteratura. Molti studi hanno dimostrato che lì dove il tablet viene utilizzato in maniera massiccia accentua le diseguaglianze sociali, perché il suo funzionamento scolastico si fonda su un principio che chi più ha avrà di più, chi meno ha avrà ancora meno di quello che ha. E questo determina un peggioramento delle condizioni già precarie in situazioni di svantaggio sociale. Detta in maniera molto semplice, gli studenti che hanno pochi strumenti culturali a disposizione, con l'ingresso del tablet si troveranno in una condizione di ulteriore impoverimento culturale. Lei colloca il tablet dentro la cornice, cito dal suo libro, di un nuovo modello di apprendimento, e questo a sua volta pretende di giustificarsi sulla base di una nuova concezione della conoscenza. Ecco, in che cosa consiste questo nuovo modello di apprendimento e quali sono i rischi? Un nuovo modello di apprendimento che tende a svalutare le dimensioni intellettuali a vantaggio delle pratiche. Per cui una scuola efficace ed efficiente, una scuola moderna, è una scuola che punta soprattutto sul saper fare. Ora, questo saper fare è in realtà un appiattimento dei giovani su dimensioni che sono meramente operative, con un effetto di impoverimento linguistico molto grave. Lei spesso cita, talora con sarcasmo, un'espressione molto di moda, la società della conoscenza, la utilizza infatti fra virgolette. Come mai questo sarcasmo? Non ci crede nella società della conoscenza? No, perché la società della conoscenza è, diciamo così, una società dove la conoscenza gode di pessima fama, perché la conoscenza è un lavoro complicato, difficile, comporta un apprendistato lungo, una preparazione rigorosa. Invece qui è questa società della conoscenza viene affidata invece a processi formativi che sono sempre più poveri di contenuto, sempre più elementari nei loro fondamenti. Lei spiega che questa diffusione del tablet avviene in tutti i livelli scolastici e cita appunto anche le ricerche fatte in Italia, gli esperimenti eccetera. Ecco, secondo lei dov'è il rischio maggiore? Nelle scuole elementari o nelle scuole superiori? Guardi, ogni fase della crescita ha i suoi rischi, naturalmente. Io credo che ci siano due grandi malati nel sistema scolastico italiano, che sono la scuola elementare e la scuola secondaria superiore. Per ragioni differenti, entrambe queste scuole hanno vissuto in questi anni una fase di disorientamento e legata anche a un impoverimento dei contenuti culturali. Grazie ad Adolfo Scotto Di Luzio, autore di Senza Educazione. Buona serata. Grazie a voi, buonasera. Una visione speculare a quella di Scotto Di Luzio è invece quella di due studiosi americani. Uno ha insegnato ad Harvard, l'altro insegna all'MIT. Si chiamano Daniel Goleman e Peter Senge. E il libro loro si intitola Scuola di futuro, manifesto per una nuova educazione, pubblicato da Rizzoli Etas, 112 pagine, 13 euro, tradotto da Giovanni Gladi su Ubbiali. Qui troviamo proprio la tesi che non convince l'autore italiano, perché anche questi autori americani partono dalla diffusione delle nuove tecnologie che pongono nuove sfide agli studenti. Gli studenti del futuro, secondo gli autori, devono scoprire tre doti, devono essere preparati ad affrontare tre sfide: quella di concentrarsi su se stessi, quella di sintonizzarsi con gli altri e quella di comprendere il mondo nel suo insieme, così scrivono gli autori, che esattamente sono gli obiettivi che Scotto in qualche misura critica, non perché non siano importanti in sé, questo lo dice anche Scotto Di Luzio, ma perché non si può ridurre l'istruzione esclusivamente a questi obiettivi, a queste aree. E infatti gli autori spiegano l'obiettivo dell'insegnamento dovrebbe essere quello di formare ragazzi sempre più felici, calmi e interiormente maturi, che raggiungeranno il successo nella loro vita e contribuiranno a cambiamenti fondamentali nella società. Così gli autori. E noi possiamo aggiungere una domanda: ma che cosa avranno imparato? Che cosa sapranno? Con che bagaglio saranno usciti dalla scuola? E questo è l'obiettivo della ricerca anche di Scotto Di Luzio, quindi due libri forse da leggere insieme o in contrapposizione. E a questo punto sospendiamo per un momento e ci sentiamo fra un attimo. Donne, è arrivato Melog del tardo mattino. Melog accomoda pregiudizi, pensieri scontati e luoghi comuni. Abbiamo tutti i pezzi di ricambio per sguardi non convenzionali. Se il vostro cervello fa fumo, noi lo ripariamo. Affiliamo senso critico, fratelli coltelli, parenti serpenti, opinioni saccenti. Insomma, ascoltate il Melog di mezzogiorno. A metà giornata si rivolta alla frittata. Gianluca Nicoletti vi aspetta con Melog da lunedì a venerdì dalle 12 alle 13 su Radio 24. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba. Mercoledì prossimo sarà il giorno della memoria, la giornata nella quale ricordiamo le vittime dell'Olocausto. Sarà anche la giornata della Kippah, nella quale potremo esprimere la nostra solidarietà agli ebrei nostri contemporanei, i nostri vicini, che sono spesso fatti oggetto in tutto il mondo di attacchi antisemiti. E allora vi segnalo alcuni fra i diversi titoli, alcuni di grande valore, che sono stati pubblicati in questa occasione. Cominciamo con uno scrittore fra i più noti e sensibili nella rievocazione, nella rielaborazione di quella esperienza terribile, cioè Aaron Appelfeld, nato in Bukovina, internato ragazzino, fuggito dai campi. E poi, dopo varie drammatiche peripezie che lo videro tra l'altro anche transitare per l'Italia, approdato in Israele. E adesso pubblica Oltre la disperazione, pubblicato da Guanda, 138 pagine, 14 euro, tradotto da Elena Löwenthal. Questo non è un libro di narrativa, ma raccoglie tre lezioni e che vennero tenute in vari anni e in diverse università americane, che poi sono state raccolte in forma definitiva e presentate alla Columbia University nel 1999. E segue nel libro un'intervista all'autore da parte del grande scrittore americano Philip Roth, un'intervista che venne pubblicata su un giornale americano nel 1988. In queste lezioni Apperfeld si misura con un tema difficile, ossia l'eredità che l'Olocausto e la Shoah hanno lasciato sui sopravvissuti e il rapporto tra questa tragica esperienza e due sfere importanti del pensiero e dell'azione dell'umanità, ossia l'arte e la fede. Apperfeld ricorda lo sbigottimento della generazione dei propri genitori che si vide perseguitata dopo che in realtà aveva fatto tantissimo quella generazione per assimilarsi all'ambiente e alla cultura circostanti, cercando di fare in modo di distaccarsi al massimo proprio dalla tradizione ebraica, e quindi accolsero con una sorpresa appunto sbigottita il fatto di essersi sforzati di integrarsi così in maniera così convincente e poi trovarsi appunto perseguitati. E questo, dice Apperfeld, è un morbo che non ha mai abbandonato gli ebrei. E infatti scrive: quello che mi angustia e continua a turbarmi è questo antisemitismo diretto verso se stessi, un antico morbo ebraico che in epoca moderna ha assunto varie fattezze. E quindi i sopravvissuti dalla Shoah sono perseguitati da una domanda alla quale non riescono a rispondere. Che cosa è successo? Come è successo? È successo veramente? E allora, scrive l'autore, si accorgono che non sono riusciti a trasformare l'esperienza della Shoah in un elemento spirituale della mia vita. Ripetendo instancabilmente, va al di là della mia capacità di intendimento, abbiamo finito per relegare la nostra esperienza dentro una casella approntata all'uopo, sofferenza infinita senza alcun senso. Una testimonianza della presenza ebraica nella società italiana fino alla tragedia dell'Olocausto è quello di Lia Levi, per molti anni direttrice del mensile Shalom, che ripropone un libro del 1997, Tutti i giorni di tua vita, pubblicato adesso da edizioni E.O., 346 pagine, 18 euro. E questo libro è la saga di una tranquilla all'inizio famiglia ebraica, le cui vicissitudini vengono raccontate a partire dal 1921, quando già provoca scompiglio nella nuova casa che la famiglia va ad abitare il fatto che le due figlie, già adolescenti, già signorinelle, vadano a scuola. Sullo sfondo del libro scorrono le vicende italiane, in quel periodo particolarmente burrascose, e che avrebbero portate prima al fascismo, contro il quale si schiererà il padre, fino naturalmente poi alle persecuzioni contro gli ebrei, che faranno il vuoto intorno alla famiglia Volterra, la quale poi vivrà la tragedia dell'Olocausto e nei superstiti il recupero successivo della cultura d'origine, fino a un drammatico colpo di scena che chiude il libro, ambientato proprio nella casa dalla quale le vicende erano partite. Vi segnalo poi un commovente libro di Abram Sitrin, che è una vittima sedicenne di Auschwitz, che era un grande appassionato di scrittura, di racconti e di poesie. Alcuni di questi racconti furono scritti nel ghetto di Lodz, la città polacca con oltre 200.000 ebrei, nella quale eccelse la persecuzione contro quel popolo. Uno di questi 200.000 era appunto Sitrin, i cui appunti sono stati conservati dalla sorella e ora vengono pubblicati appunto per la parte che riguarda gli scritti durante il periodo del ghetto. Il libro si intitola Racconti dal ghetto di Lodz, gli scritti ritrovati di un adolescente morto ad Auschwitz, pubblicato da Marsilio, tradotto e curato da Frediano Sessi, 210 pagine, 16,50 €. Ci sono anche tratti autobiografici nel libro, per esempio la novella che racconta di un ragazzo che si vede distrutti i manoscritti dalla famiglia benestante alla quale aveva comunicato di non voler impegnarsi nell'attività imprenditoriale del padre. E più o meno questo successe all'autore, che apparteneva appunto a una famiglia di imprenditori e che voleva dedicarsi a tutti i costi alla scrittura. Tra l'altro il padre vero dell'autore, che era appunto un ricco industriale, morirà di fame nel ghetto, e lo stesso Abram diventerà alla sua morte il capofamiglia, per essere poi deportato ad Auschwitz, dove morirà tre giorni dopo. Ma nei campi non c'erano solo gli ebrei. Allora è significativa la testimonianza di uno scrittore tedesco morto nel 1950 e che fu per molti anni tra i più noti, forse il più noto e il più letto scrittore tedesco, Ernst Wichert, che fu anche lui deportato a Buchenwald per qualche mese come oppositore politico. Tra l'altro Wichert era un conservatore, ma fortemente contrario al nazismo. Dopo poche settimane sarà rilasciato, a patto di mantenere il silenzio sulla sua esperienza e su quanto aveva visto. Un silenzio che rompe quasi subito con questo romanzo che ci presenta adesso Schirà, La selva dei morti, 128 pagine, 14 euro, La traduzione di Lavinia Mazzucchetti viene qui aggiornata. Il libro fu scritto quasi subito, la sua esperienza, ma l'autore lo nascose in una scatoletta di latta che seppellì in un giardino, e venne pubblicato per la prima volta nel 1946. E qui appunto racconta la sua storia nel lager e soprattutto la drammatica scoperta dell'abiezione alla quale si è ridotta la Germania. Era il suo popolo, scrive l'autore, proprio il suo. Tutti avevano impiegato la vita a illuminarlo, a purificarlo, a confortarlo, e anche lui si considerava un operaio di quella vigna. In quel momento seppe con certezza incrollabile che quel Reich sarebbe crollato. E scopre anche l'importanza di essere uomini e di non credere nelle ideologie, ma di rivalutare appunto il sentimento di appartenenza all'umanità. Scrive infatti l'autore: Johannes, che è il protagonista del libro, considerava ogni ideologia una sventura e non poteva concepire speranza, semmai ancora ne aveva, se non nella schilleriana educazione del genere umano. Chi gli aveva offerto aiuto nel campo non l'aveva fatto come comunista, ma come uomo che ha conservato il senso della giustizia e della dignità in contrasto a coloro che lo profanavano. Dell'editore Keller segnalo un altro libro. Questa è una testimonianza dello studioso austriaco Martin Pollack, Paesaggi contaminati, che è tradotto da Melissa Maggioni, 144 pagine, 14 euro. Pollack qui parte dagli anni dell'infanzia, che trascorre immerso in un solenne apparentemente paradisiaco paesaggio in Stiria, dove però si consuma nell'immediato dopoguerra la tragedia della famiglia, con il padre che si era dato alla fuga e che poi verrà ucciso perché ex prigioniero di guerra, e con la madre che viene arrestata perché è sospettata di agevolare la fuga del marito. Crescendo, lo scrittore si accorge che quella regione era incrinata da fessure profonde, così scrive, ma soprattutto scopre che nella propria concezione del paesaggio si consuma la differenza tra il nazismo e il resto del mondo. Infatti il popolo tedesco, secondo i tedeschi, plasmano il paesaggio, mentre i vicini slavi, considerati pigri e deboli, dimorano inoperosi in quelle zone selvagge, sterili e paludose. E di qui i tedeschi giustificavano in qualche misura l'occupazione di quelle terre per esperle negli abitanti e ucciderli in massa, per esempio come successe in Bielorussia. Insomma, il paesaggio perde la propria innocenza, si popola di monumenti sui massacri che lì sono stati compiuti, ma tante vittime non sono stati ricordati, tante vittime non hanno avuto nemmeno diritto al nome e alla memoria. E allora dobbiamo fare di tutto, scrive l'autore, per sottrarre all'oblio le vittime sconosciute delle fosse comuni dei paesaggi contaminati e dare loro i nomi, i volti e le storie che meritano. Dobbiamo cercare di scoprire qual era allora l'aspetto dei luoghi e qual è oggi. È importante per poter avere un'immagine dei paesaggi contaminati. Poi di Virginia Bailey, che è una scrittrice inglese che ha avuto grande successo in Gran Bretagna, segnalo il libro Una mattina di ottobre, tradotto da Giuseppe Maugeri per Editrice Nord, 412 pagine. Qui si parte dal 1943 e dai rastrellamenti dal ghetto. Daniele Levi ha 7 anni, vive nel ghetto di Roma e viene affidato ad un'altra donna dalla madre in fuga, e da qui parte una storia che si proietta fino agli anni 70. Insomma, qui la persecuzione degli ebrei è un punto di partenza per questa seconda prova della scrittrice, che non ha tradito le attese appunto del suo pubblico. E a questo punto il confettino. Vi segnalo innanzitutto un libro che si richiama in qualche modo a quello di Citrin, perché parla delle fiabe scritte a Theresienstadt dalla responsabile del reparto dei bambini malati. Lei era una scrittrice per l'infanzia molto famosa, Ilse Herlingen-Weber, che poi volle accompagnare i suoi bambini ad Auschwitz, dove sarebbe morta. Nel campo di Theresienstadt la Herlingen-Weber aveva raccolto delle fiabe ebraiche, che adesso vengono riproposte dall'Ora Blu delle Fiabe, curata da Rita Baldoni, illustrato e arricchito con vari documenti di presentazione storica degli studenti del liceo Leonardo da Vinci di Civitanova Marche, e i proventi di questo libro, che costa 16 euro, andranno a favore di iniziative sociali. Il libro è pubblicato da Paoline, 160 pagine. Poi, sempre dalle Paoline, mi segnalo di Angela Krumpen, che è una giornalista tedesca, Il violinista di Schindler, 192 pagine, 9,90 euro, che racconta dell'amicizia tra una giovane violinista e l'ultimo sopravvissuto agli ebrei messi in salvo da Schindler, cioè Michael Emge, che con la sua amica si recherà nel campo di concentramento nel quale era stato messo in salvo. Infine vi segnalo il libro di un'autrice che abbiamo già citato, Lia Levi, Quando tornò l'Arca di Noè, pubblicato dal Battello Vapore, 160 pagine, 14 euro, in cui si racconta la storia di tre ragazzi in fuga dal ghetto di Roma che si metteranno in salvo grazie alle storie apprese nella loro istruzione religiosa leggendo la Bibbia. Ultimi arrivi. Parliamo di tre fenomeni pop. Il primo è Star Wars. I due pastori valdesi, Peter Ciaccio e Andreas Köhn, hanno scritto il Vangelo secondo Star Wars, nel nome del Padre, del Figlio e della Forza, F maiuscolo naturalmente, pubblicato da Claudiana, 130 pagine, 12,90 euro. Questa è una testimonianza appunto di teologia pop legata a un film che è più di una saga secondo gli autori, perché rappresenta un universo mitologico, una cosmogonia, un mondo parallelo al nostro. Poi parliamo di calcio con uno dei campioni più amati, Bobo Vieri, che con Mirko Graziani ha scritto Chiamatemi Bomber, pubblicato da Rizzoli, 252 pagine, 12,99 euro. E infine parliamo di satira, con il libro di uno dei suoi padri in Italia, Giorgio Forattini. Il libro si intitola Forattone, 756 pagine, 35 euro. Questa non è naturalmente l'opera omnia di Forattini, ma una raccolta delle vignette più significative a partire dagli anni 70, quando Forattini cominciò a lavorare a Paese Sera per poi spiccare il volo da Repubblica. Fu con Repubblica fin dalla fondazione. Infatti nel libro troviamo la vignetta del primo numero di Repubblica, che proprio pochi giorni fa ha festeggiato appunto 40 anni. E con questo ringrazio Luca Cremonese, redazione Peter Bescapè, regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, libro@radio24.it, e il nostro sito www.radio24.it, dove potete sempre ascoltare questa e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona serata e vi do appuntamento a domenica prossima.